eterne vocali. A. A. Che parla. A. E. Parlante. I. A. O. O. Salta. A. U. U. Saltante. A. E. E. A. Che urla. A. O. O. Urlante. A. U. U. A. Che scrive. A. I. I. Scrivente. O. O. A. U. U. A. Che ama. A. Amante. A. Che regna. A. U. U. Regnante. A. E. E. A. I. I. E 56 minuti. Che ride. A. A. E. Ridente. E. O. O. E. Che lotta. E. A. A. E. Lottante. E. O. O. E. Che lancia. E. Lanciante. A. A. E. I. I. E. Che soffia. E. Soffiante. E. A. A. Che dorme. I. I. Dormiente. O. O. Che lavora. U. Lavorante. A. A. E. I. I. E. O. O. I. I. O. O. I. Che piange. I. A. A. Piangente. E. I. Che suda. I. Sudante. I. A. A. Che beve. E. E. Bevente. U. I. Che nuota. I. A. A. Nuotante. E. E. Che viaggia. U. U. Viaggiante. O. O. Che ruba. A. Rubante. E. E. I. U. U. I. O. O. I. A. A. I. E. E. O. O. Che corre. O. Corrente. O. A. Che guida. O. Guidante. O. U. U. Che evita. A. A. Evitante. O. E. E. O. Che impreca. I. O. Imprecante. O. A. Che spiega. O. Spiegante. E. E. O. Che I. nasconde. O. Nascondente. O. A. A. O. E. E. O. I. I. U. U. Che balla. O. U. A. A. Ballante. E. E. Che sale. I. U. Salente. U. A. A. Che sceglie. U. E. E. Scegliente. U. I. I. Che scorge. O. U. Scorgente. U. Che leva. U. I. I. Levante. O. O. Che pone. A. A. Ponente. E. U. I. I. U. O. O. U. A. A. U. E. E.